Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, capire a quale coraggio lei si riferisca quando, rispondendo alla lettera di una giovane imprenditrice che lamenta le difficoltà delle piccole imprese in Italia, la invita ad avere coraggio, è difficile. Come era difficile il Vangelo di domenica scorsa che diceva: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Mentre il signor Tanzi tenta di convincere gli italiani che lui non sapeva, non capiva, che ha messo tutti i suoi averi, comprese le ville e le piscine, a disposizione, i banchieri che con un euro alle primarie prodiane per la prima volta si sono schierati circolano liberi e pericolosi più che mai. In caso di contenzioso, sarà divertente ascoltare chi dirà che è colpa di Draghi. Appena insediato, ci ricordiamo tutti le sue esortazioni alle banche di ingrandirsi e acquisirsi. Nessuno però è andato a vedere, o se ha visto ha taciuto, che cosa effettivamente i banchieri stessero combinando con i soldi dei cittadini. È fuori luogo, secondo lei, o forse sconveniente, che questi personaggi ci mettessero finalmente la faccia ai soldi che si sono intascati nel frattempo con i maxi stipendi? Dobbiamo per forza ascoltare Travaglio per trovare un po' di conforto? Il coraggio non ci manca, direttore, e nemmeno la passione. Il problema è che siamo ostaggi e sotto ricatto. I nostri carcerieri hanno perso, se mai l'hanno avuto, il senso di pietà e coscienza. Elena. Direttore, mi consenta questo sfogo. Questa Italia è una camera a gas. Non bastava che Berlusconi avesse diviso gli italiani fra comunisti e non comunisti. Ce ne sarebbero più ora di quanti non ce ne fossero al tempo delle Brigate Rosse. Fra politici di mestiere incapaci e rubasoldi e produttori di ricchezza, sostegno del paese e spina dorsale di una vera politica, fra chi rideva dall'alto della sua spudoratezza finanziaria e chi lavorava tipo formichina per un misero stipendio fisso, fra chi considera apparire in televisione il punto di arrivo e chi cerca di difendere i valori su cui si basava la nostra società. Adesso il tessuto sociale è sfilacciato, tutti contro tutti. Chiunque si sente in grado di giudicare e commentare il lavoro degli altri. Magistrati, insegnanti, professori universitari, piloti, pubblico impiego si sono sentiti mettere alla gogna da chiunque si considerasse superiore nella scala sociale, perché produttore della vera ricchezza, possibilmente quella del Nord. Mi son chi a laurea, mi guminga temp da perder. Ragazzi che attaccano dei coetanei perché identificati come comunisti per i loro vestiti. Politici che confrontano il loro onorario a quello di certi giornalisti, vedi Castelli a danno zero o Capezzone con Travaglio, e per finire i fannulloni a sinistra. Si possono posizionare i cocainomani a destra? Ma nonostante tutto questo disastro, dobbiamo sentirci felici ed ottimisti. L'inno nazionale viene cantato a squarciagola all'inizio di ogni partita di calcio o di rugby che sia, e gli abitanti del paese degli spaghetti e dei mandolini sono degnamente rappresentati da un presidente del Consiglio dei Ministri che ricopre abilmente il ruolo del buffone di corte, ma che si permette altresì di intervenire senza invito in una trasmissione televisiva, di alzare la voce, proprio come un padrone con i suoi dipendenti disubbidienti, e di sbattere il telefono in faccia. Sarà perché è posizionato a destra? Direttore, ritorneremo mai ad essere un paese normale? Fiorella. Vorrei dire la mia opinione sui fannulloni di sinistra. Penso che sia solo una questione statistica. Se si assume come vera l'ipotesi che l'elettore di destra è prevalentemente libero professionista, artigiano, rappresentante, commercialista, avvocato, piccolo imprenditore, in genere titolare di partita IVA, e quello di sinistra preferisce lavorare nel settore pubblico, ospedali, scuole, comuni, ministeri e quant'altro, con un bel sillogismo si ottengono due conclusioni. Dato che gli evasori sono principalmente liberi professionisti, gli evasori sono di destra. Dato che nel settore pubblico ci sono tanti fannulloni, i fannulloni sono di sinistra. Ovviamente sono entrambe generalizzazioni, che non condivido. Ma se tanta parte della sinistra ha fatto della prima conclusione un cavallo di battaglia che non le ha neppure portato bene, non si vede come non possa essere detta anche la seconda. Provocazione. Mi piacerebbe vedere un reporter che, telecamera alla mano, riprendesse le pause, caffè, mercato e altro dei dirigenti di Regione Toscana e provincia di Firenze, Pistoia, Prato, eccetera. E lì, di sicuro, sono tutti di sinistra. Lorenzo. Fatta innanzitutto la doverosa premessa che alla gente comune la questione vigilanza Rai non interessa, mi chiedo dove stia andando questa politica. Mi spiego. In questi giorni molto si dibatte circa l'elezione del presidente della Commissione di Vigilanza Rai, con il voto favorevole degli esponenti della maggioranza di governo, del senatore Villari, in quota al centro-sinistra. Secondo l'opposizione, l'attuale maggioranza ha supportato tale candidatura al solo scopo di impedire la nomina del deputato Leoluca Orlando, così come proposto dall'opposizione. Apriti cielo! E qui siamo al teatro dell'assurdo. Il centrodestra nomina un deputato dell'opposizione, già membro peraltro della commissione stessa, e l'opposizione si infuria e chiede le dimissioni del presidente nominato. Alla fine maggioranza e opposizione raggiungono un accordo sulla candidatura di Sergio Zavoli. Ma qui viene il bello. E sì, perché il buon Villari sembra non aver proprio nessuna intenzione di lasciare il suo posto. E io lo capisco in pieno. Ma mi chiedo, se l'opposizione lo aveva inserito nella commissione, perché mai si preoccupa della sua nomina a presidente della stessa? È forse un incapace? E allora non capisco la sua nomina alla commissione. È stato forse corrotto? E allora l'opposizione dovrebbe fare l'ennesimo mea culpa per non aver scelto la persona giusta per l'incarico affidatogli, cosa peraltro già successa nelle nomine dell'ultimo governo. E perché mai bisognerebbe eleggere a presidente della commissione un soggetto che della stessa non fa neppure parte? Le solite questioni della politica italiana. All'uomo della strada interesserebbe piuttosto che maggioranza e opposizione discutessero sull'abolizione del canone Rai, ma di questo ovviamente nessuno parla. Lettera firmata. Si elegge Zavoli perché i giovani non sono formati e non si formano i giovani perché i vecchi detengono il potere. È il classico schema della politica. La destra al governo crea un clima di xenofobia. E siccome c'è un clima di xenofobia, causato magari da lassismo, gli italiani votano a destra. Marcello, Roma. Per ogni problema ci si rivolge sempre ai grandi vecchi. Ma chi si rivolge ai grandi vecchi? I politici di professione, che non sanno cosa fare. Se analizzate bene il governo Berlusconi, vedrete che è composto da giovani che hanno fiducia nel presidente Berlusconi e pertanto hanno voglia di imparare da lui come agire, e non dai politici di professione, come i D'Alema e i Fini, che fanno solo danni. Questi giovani parlamentari non sono solo dei signor sì, ma ragionano con il loro cervello e poi portano le loro idee in visione al vecchio, cioè Berlusconi, perché sanno che possono imparare e continuare a fare gli interessi della gente. Comunque Berlusconi, a parte l'età, ha uno spirito più giovane di quello delle sue ministre. Fiore. A proposito del messaggio di Al-Qaeda sul futuro presidente americano, Repubblica titola Obama negro filo israeliano, Al-Qaeda contro il presidente. Strano, ma non ho sentito Walter Veltroni scagliarsi contro Al-Qaeda, gridando allo scandalo, come fece quando Silvio disse di Obama «è bello, giovane e abbronzato». Al-Qaeda usa il termine «negro», non abbronzato o nero o di colore, ma negro. Giovanni. Mi inserisco nel dibattito sul testamento biologico per porre una domanda. Il comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione italiana, perché è stato redatto ed inserito nel testo? Per difendere la persona dall'accanimento dei medici nelle fasi terminali della vita biologica? Ma non c'erano già le nozioni scientifiche che lasciavano prevedere questa possibilità? O per difendere la persona dalla somministrazione di farmaci a scopo di sperimentazione da parte dello Stato, come era avvenuto per centinaia di migliaia di persone, o milioni, nella Germania e forse anche in Italia, fino a qualche anno prima? Se la motivazione è la seconda, è bene non fare riferimento incondizionato e senza riferimento al contesto dell'articolo 32,2. E poi occorre certamente regolamentare la tematica, tenendo conto del complessivo orientamento del testo costituzionale a difendere la persona in tutti i suoi aspetti. Lettera firmata. Ci si lamenta per la fuga dei cervelli, ma perché in Russia e nei paesi dell'Est i cervelli rimangono in patria a condizioni proibitive? Gli italiani cercano solo soldi, a loro non interessa nient'altro. Che se ne vadano pure. Silvio. Mi piacerebbe che affrontaste temi concreti, utili alla gran parte della gente. A noi italiani, della presidenza della vigilanza o di quello che dice Di Pietro, ce ne importa poco. Vorrei sapere che fine hanno fatto le promesse di eliminare le province, le comunità montane. Come mai l'altro giorno in Parlamento non hanno eliminato il finanziamento ai partiti con la proposta di Di Pietro? Vorrei inoltre sapere quando si decideranno a introdurre regole precise per chi decide di fare politica. Paolo. Caro direttore, mi potrebbe spiegare come mai più c'è richiesta di beni primari come pasta, frutta, verdura, riso, eccetera, più i prezzi salgono? Io lavoro nel settore della carpenteria metallica e mi chiedono i prezzi a gamme. Nel mio campo, più il consumo è alto e meno costano, oppure più c'è richiesta e più i prezzi, per essere competitivi, si devono abbassare. Non sarebbe normale e onesto, quando la gente compra, bloccare i prezzi? Rudy. Ho 28 anni. E in queste ultime settimane la mia generazione si è ritrovata in una situazione storica che sino a poco tempo fa aveva solo letto sui libri. Una generazione che già combatteva con la disoccupazione, difficoltà locali e sociali, ma si trovava comunque al sicuro, quasi che il benessere incamerato dai nostri genitori ci permettesse di impegnarci di meno e aspettare che i grandi facessero qualcosa per noi. Quindi ora tocca a noi. Avverto però, in giro per la mia città, grande insofferenza e preoccupazione da parte di giovanissimi che, invece di trarre anche considerazioni critiche sulle decisioni etiche degli adulti, sembra quasi che debbano ripartire proprio da queste. Regna la convinzione che, per emergere socialmente ed economicamente, sia tassativo far soccombere il prossimo. Sino ad oggi è stato così. Trovo che anche i giovani cattivi siano troppo vicini ideologicamente ai vecchi cattivi e che quindi le basi per una ripresa economica siano compromesse, in quanto, se non saranno accompagnate da una ripresa di moralità, si correrà il rischio che questa venga compromessa. Affermo questo con grande ipocrisia, in quanto, purtroppo, io stesso ho smesso di raccontarmi menzogne già da un po' di tempo e, di fatto, sono diventato cattivo. Quel ragazzo pieno di vita e rispettoso di nobili valori che era una volta è stato sconfitto e non c'è più. Non è stato ucciso dalla società, per me sarebbe liberatorio pensarla così, ma è stata una vera e propria eutanasia della coscienza. Vivo nella speranza di sopravvivere un giorno in più degli altri. Cinicamente, Alessio da Cagliari. Caro Alessio, la sua lettera potrebbe sembrare un grido di disperazione e invece vorrei considerarla un gesto di speranza. Certo, di speranza, perché di fronte alle delusioni riuscire a non dare ritualmente la colpa alla società, ma pensare che anche un po' di responsabilità spetti a tutti noi, mi sembra sinceramente un fatto da sottolineare. Lei parla di moralità che si scontra con l'ipocrisia. Penso che già vedere questo scontro sia fare un passo avanti per affrontarlo e per continuare a stare dalla parte della moralità. I giovani hanno bisogno di fiducia e di buoni maestri, ma hanno bisogno anche di sentirsi responsabili di se stessi. La maggiore responsabilità è di noi adulti, che non dobbiamo spezzare le loro speranze. E ogni richiamo, in questo senso, è provvidenziale. Grazie, Alessio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.